Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, il traghettatore. Questa puntata la dedichiamo alla decrescita, ancorché felice, capirete meglio man mano che andiamo avanti, e anche grazie ai chiarimenti del nostro sommario. Liberté, égalité, fraternité e diminution. L'aria nuova della decrescita felice per amore o per forza arriva da Parigi. Laureato ci sarà lei, io preferisco la chitarra on the road. Storia di un talebano dei supermaster che ha scelto di suonare col cappello in mano. La chiamano transizione, ma non toccate ferro, non è quella là. Anche se un caro istinto pur sempre c'è, ma si chiama combustibile fossile. E come al solito ci prendiamo anche un po' in giro, forse giochiamo un po' con le parole in questi sommari, però state certi, la decrescita è una roba seria, una storia che parte come al solito dal nord, anche se in questo caso abbiamo citato Parigi perché uno dei profeti della decrescita parte da lì. Parliamo anche di downshifting, si chiama, scalare le marce, perché in effetti una delle controindicazioni per, come dire, l'ogorio della vita moderna, ma anche per la crisi che ci sta un po' stringendo nell'angolo, è quello di consumare di meno. Secondo un'indagine che ha pubblicato il Corriere qualche settimana fa, ci sarebbero già 16 milioni di persone nel mondo che hanno scelto di cambiare la vita, cioè di consumare di meno, guadagnare di meno, avere più tempo a disposizione, insomma, vivere meglio. Questo fenomeno si chiama decrescita. È chiaro anche per un bambino che una crescita infinita non è possibile su un pianeta finito. Allora, naturalmente, lei ha parlato dell'ingegnosità umana e fortunatamente l'uomo è ingegnoso, e la scommessa della decrescita è anche una scommessa sull'ingegnosità umana, che l'uomo sarà capace di trovare soluzioni. E effettivamente trova delle, per esempio, tutte le grandi imprese che sono i più inquinatori del pianeta, che si sono rassomigliati nel più grande lobby di criminali in collo bianco, il World Business Council for Sustainable Development, il Consiglio Mondiale per lo Sviluppo Sostenibile, parlano sempre dell'eco-efficiency, l'eco-efficienza. Bon, è una buona cosa che sempre più, per fare una macchina, la Fiat usa sempre meno acciaio, sempre meno caucciù, sempre meno, e la macchina consuma sempre meno petrolio. Questo è una buona cosa, ma come lo diceva il ministro ceco dell'ambiente, quando si è un allagamento nella camera da bagno, si può prendere negli stracci, eccetera. Ma lui dice, la prima cosa che faccio io è chiudere il rubinetto. Se non chiudiamo il rubinetto, chiudere il rubinetto è uscire dalla società della crescita. Uscire dalla società della crescita. Lui è Serge Latouche, da Parigi, sul fenomeno della decrescita. Maurizio Pallante, che è qui con noi. Salve Maurizio. Buongiorno. Saggista e il fondatore dell'Associazione Decrescita Felice Italiana, quindi quello che sta interpretando questo modello, correndo come una trottola qua e là per propagare il verbo della decrescita. Sì, purtroppo la mia vita in questo momento è molto movimentata. Perché? Perché l'interesse nei confronti della decrescita cresce paradossalmente sempre di più, si diffonde sempre di più, e molte persone vogliono ragionare su questo tema. Ecco, praticamente, per farci capire subito, poi torniamo indietro e torniamo anche alla teoria. Praticamente il suo suggerimento è di comprare meno, mangiare meno, vestirsi, cioè come funziona esattamente la decrescita? La decrescita funziona in due maniere fondamentalmente. La prima consiste in uno sviluppo delle tecnologie che ci consentono di consumare, a parità di servizio di prodotti, meno energia, meno materie prime e di produrre meno rifiuti. Quindi noi siamo fautori di una innovazione tecnologica che abbia questo tipo di finalità. Se noi abbiamo delle case che consumano 20 litri di gasolio al metro quadrato all'anno per il riscaldamento, adottando opportune tecnologie si possono ridurre questi consumi a 7 litri, a 5 litri, a 3 litri. Questo significa soddisfare lo stesso bisogno di riscaldamento consumando di meno, spendendo di meno e inquinando di meno. Ma questo è chiaro, perfetto, e tutto sommato non è neanche necessario chiamarlo movimento di decrescita, questo è saggezza, questa è, come dire, lungimiranza, queste sono leggi economiche quelle che lei cita. Dov'è che diventa tutto questo anche un fenomeno etico esistenziale? Se lo diventa. Sì, lo diventa nel momento in cui si sceglie di consumare meglio, non meno. Che può consistere anche in meno, ma soprattutto l'elemento di riferimento deve essere un elemento di valutazione qualitativa e non quantitativa. E a volte ci rendiamo conto che il miglioramento della qualità dipende anche con una diminuzione della quantità. Lei, ho letto di lei, abbiamo ovviamente letto tanto, lei scrive molto, e una delle cose che colpisce è che lei parla di un nuovo rinascimento, collegandola a questo movimento. Quindi, cioè... Sì. Cioè, oggi in una società fondata sulla crescita del prodotto interno lordo, gli esseri umani sono al servizio dell'economia, sono strumenti per un fine estraneo a loro. Nel discorso della decrescita, l'economia torna a essere finalizzata al miglioramento della qualità della vita degli esseri umani. Quindi gli esseri umani tornano il fine e l'economia lo strumento attraverso cui si raggiunge questo fine. Grazie Maurizio Pallante, e in bocca al lupo per il suo progetto. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Noi adesso facciamo un piccolo salto con Ferry Bot, ci prendiamo questa licenza e prendiamo a bordo una indiana famosa, Vandana Shiva, è una fisica e una grande ambientalista. Anche lei ha un verbo che propaga per il mondo e che è basato sulla solidarietà. Anche lei parla di riduzione dei consumi, anche lei è una profeta della decrescita. Secondo cui questa decrescita può contribuire anche ad alleviare la fame nei paesi di cui si occupa Vandana Shiva. Com'è possibile questo, Vandana Shiva? Qual è il collegamento fra la decrescita e la salvezza dei popoli affamati del mondo? First, because this non-sustainable living. Primo, perché questo modo di vivere poco sostenibile nei paesi ricchi e nelle grandi città è basato su un massiccio sfruttamento delle risorse dei paesi più poveri. C'è una teoria dominante secondo la quale se i ricchi consumano molte risorse, danno la possibilità ai poveri di ottenere un profitto esportandole. Ma c'è da dire innanzitutto che non sono le persone povere che fanno i soldi grazie alle esportazioni, ma le grandi multinazionali. Per esempio, quando viene esportato il lattice dai paesi del terzo mondo, la terra viene tolta ai contadini. Le compagnie mettono in piedi delle grosse aziende agricole con manodopera a basso costo e riducono le risorse d'acqua del paese. Quando i paesi ricchi importano verdure e fiori dal terzo mondo, impoveriscono la terra sulla quale si sarebbe potuto coltivare cibo per gli abitanti di quel paese. Thirst and hunger are a result of a non-sustainable, unjust consumption system. La sete e la fame sono dunque il risultato di un sistema di consumi non sostenibile e ingiustificato dei paesi ricchi. Quindi se tutte le persone vivessero con le risorse del proprio paese, la terra darebbe di che sfamarsi anche alle persone del terzo mondo. Questo ovviamente... Forse non è possibile, forse è possibile gradualmente. Intanto però ci sono i movimenti di transizione, transition town, che stanno muovendo le acque. Spero solo che questo movimento di transizione possa diffondersi velocemente prima che l'avidità di questo sistema economico distruttivo comprometta per sempre il nostro meraviglioso pianeta. Grazie Vandana Shiva, grazie. Thank you and bye bye. È un grande personaggio quello che avete ascoltato, molto noto, ma soprattutto anche con grandi momenti di suggestione per via del suo essere una donna indiana, sia nell'abbigliamento che nei modi, che nello stile, che nella profondità dei messaggi che lancia. Vero Marco Fratoddi, direttore della Nuova Ecologia, tu la conosci bene perché collabora col tuo giornale? Sì, salve, ciao. Salve Enzo, salve a tutti. Sì, la conosco, non posso dire bene, per carità, sarebbe un millantato credito da parte mia. Ci conosciamo, è una collaboratrice assai apprezzata della nostra rivista, pubblica ogni mese con noi una rubrica che si intitola Terra Madre. Ecco, ricordiamo a chi non lo sapesse che La Nuova Ecologia è il mensile di Legambiente, storico di Legambiente. Esattamente, Legambiente che proprio l'altro ieri ha compiuto 30 anni, quindi anche dai microfoni di Radio 24 rilancio gli auguri. Gli auguri, una lunga e ricchissima storia. Una lunga storia, esatto. Speriamo ancora lunga in avanti. Beh, speriamo anche che ce ne sia meno bisogno, no? Come avviene, che adesso la sensibilità ambientale è decisamente cambiata rispetto a 30 anni fa, quando gli ambientalisti erano considerati solo che degli estremisti talebani, si direbbe oggi, no? E invece avevano ragione. Come probabilmente ha ragione anche Vandana Shiva a citare la Transition Town. Ecco, ci vuoi spiegare esattamente cos'è questo movimento delle Transition Town? Sì, è un movimento di comunità locali che è nato 5 o 6 anni fa in Inghilterra per iniziativa di un ambientalista che si chiama Rob Hopkins, il quale ha lanciato in alcuni centri urbani inglesi l'idea di una riconversione dal basso del modello urbano verso la sostenibilità. Da quelle prime esperienze poi è nata una rete internazionale, le Transition Town, a oggi se ne contano un centinaio, dove appunto i cittadini, d'accordo con le amministrazioni, perché non è non sono esperienze autogestite, sono esperienze che nascono dal basso ma coinvolgono la volontà politica, l'amministrazione locale, ecco appunto si avviano progetti concreti per l'abbassimento delle emissioni, la spesa a chilometro zero, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la riconversione dei centri urbani verso l'economia low carbon. L'economia low carbon, no? Per essere più, come dire, plateale, una vita senza petrolio. Ma ne parliamo ancora fra qualche istante. Marco, prima diamo le informazioni sulla viabilità. Ferry boat, in viaggio verso l'economia sociale. A bordo quest'oggi avevamo Maurizio Vallante, il profeta della crescita, della decrescita felice, Vandana Shiva, la grande ambientalista indiana che predica anche in quel caso una riduzione del concetto di consumismo compulsivo. E con Marco Fratoddi, direttore della Ecologia, stiamo parlando di queste transition town, che sono delle comunità dove ci si organizza come gruppi di acquisto, di ottimizzazione delle risorse, anche il baratto, si recuperano funzioni e stili di un tempo per abbassare questa soglia. Marco, una vita senza petrolio secondo te è possibile? Ma innanzitutto diciamo che non sono soltanto stili di vita legati al tempo che fu, si tratta di riconvertire per esempio l'approvvigionamento energetico verso la fonte eolica e il fotovoltaico, che sono dei capitoli di innovazione tecnologica che ci proiettano nella modernità. Peraltro alcune di queste esperienze di Transition Town sono presenti anche in Italia, sono ancora poche rispetto ad altri paesi, però sembra che in Romagna ci sia un vero e proprio boom delle Transition Town. La prima a nascere è stata a Monteveglio, nella zona di Bologna, e sembra che si stia allargando, ecco, questa esperienza ad altri centri della provincia di Bologna e di Modena. Ecco, ovviamente c'è anche questa crisi economica così devastante che indubbiamente spinge verso questi comportamenti virtuosi. A questo proposito, fra l'altro, notavo sui giornali di ieri, la statistica secondo la quale in Lombardia si registrano più 5,7% di automobili circolanti, e questo veniva salutato positivamente. In questo segnale io ci scopro, mi dirai se sei d'accordo, anche l'esigenza di un'inversione di tendenza nella cultura dominante, dove si pensa che la quantità sia ancora oggi sinonimo di crescita e quindi di benessere. Certo, diciamo che io apprezzerei di più come indicatore di una società più sana, di un benessere diffuso, l'idea che cresca del 5, del 10, del 20% l'utilizzo della mobilità sostenibile, del mezzo ciclabili, pubblico, per esempio, quello, esatto, del mezzo privato, che come sappiamo peraltro costa molto anche al portafoglio nazionale sul piano delle conseguenze sanitarie, perché lo smog provoca, dati dell'OMS, 8.000 morti l'anno in Italia, e questo al di là degli aspetti più squisitamente umani rappresenta anche un costo dal punto di vista dell'economia. Quindi riconvertire il nostro modello urbano verso la sostenibilità significa costruire un'economia più duratura, un'economia che non si basa sul fuoco di paglia dell'oggi, ma costruisce, è vero, un benessere di lunga durata. E soprattutto un'economia che non è, come forse erroneamente i mass media stanno comunicando, non è un'economia emergenziale quella di cui parliamo, non è un'economia anti-inquinamento, è la nuova economia, no, dei nuovi stili di vita. Certo, è l'economia che poi sta, come dire, verso la quale si stanno orientando, come dire, i paesi più importanti, sia dell'UE sia su scala mondiale, penso agli Stati Uniti di Obama, la stessa Cina sta investendo molto nella direzione delle fonti rinnovabili, e poi il governo Cameron, che si è appena insediato insieme a Clegg in Gran Bretagna, ha dichiarato che intende essere il governo più verde di tutti i tempi. Sottolineo, è un governo conservatore. Infatti, grazie, saluto, c'è anche i bambini che abbiamo sentito sottofondo, grazie Marco, a presto, ci sentiamo presto. Grazie a voi. E tutto quello di cui stiamo parlando ovviamente non è solo teoria, non è comportamento virtuoso, non è riduzione dei consumi in funzione di un'idea o di un credo. Stiamo parlando anche di nuova economia, della nuova economia sostenibile, dove per esempio potrebbero anche non verificarsi episodi davvero singolari come quello che vi racconta la nostra prossima scheda. Ho 32 anni, mi sono laureato a 24 anni in economia e commercio alla Cattolica di Milano con 110 e lode. Durante gli studi ho fatto un Erasmus, poi un Socrates post laurea, infine un master in organizzazione e management dei processi distributivi. Ho studiato molto, lavorato duramente e non ho lasciato niente al caso. Dai 25 ai 30 anni ho fatto nell'ordine due stage di 6 mesi perché non avevo l'esperienza per ambire ad altro, un anno in un call center per una nota carta di credito, 8 mesi in un call center di marketing di prodotti finanziari, 3 anni in un gruppo bancario con contratto di formazione, scaduto il quale ne hanno assunti altrettanti con contratto di formazione. E a noi ormai troppo vecchi non hanno rinnovato il contratto. 6 mesi in un customer care per prodotti assicurativi. Scaduto l'ultimo contratto e non rinnovato, mi sono reso conto che ero diventato troppo vecchio per il mercato del lavoro, che era difficile anche solo ottenere un colloquio e che le mie competenze date dalla laurea si erano ormai atrofizzate, mentre mi perdevo dietro a 1000 lavori sottopagati. Ho letteralmente deposto le armi. Da 2 anni, nel weekend prendo il treno e vado da qualche parte. Padova, Verona, Reggio Emilia, Parma, Savona. Suono per strada. Raccolgo 50-60 euro al giorno e mi bastano per vivere una settimana. Se, beh, insomma, volendo essere un po' etnici, oggi potremmo citare il termine ammuina, che credo sia barese, ed è quel movimento a vuoto che si faceva sulle navi per giustificare la presenza dell'equipaggio. È un po' questo forse emblematicamente il simbolo di questa esperienza che abbiamo raccolto da blog lavoro del 28 aprile di questo giovane e sfortunato, forse, chi lo sa, insomma, forse sta anche bene, benissimo, si diverte, gira per le città, suona la musica. In questo senso non vogliamo suggerire a tutti i laureati di andare a raccogliere il denaro per strada, ma vogliamo dire, con l'aiuto di Giorgio Triani, ciao Giorgio. Salve. Che voi avete già conosciuto, sociologo, giornalista e consulente d'impresa di Parma, vogliamo dire che anche sul piano del lavoro, dell'istruzione, della formazione, è il caso di uscire fuori da quegli schemi che probabilmente adesso sono, rischiano di diventare dei vicoli ciechi, uscire fuori dall'ingorgo, che è, voglio dire, anche il titolo del libro di Giorgio Triani. Sì, sì, direi di sì, direi che quello che dicevi adesso è sacrosanto. Adesso, forse quell'esperienza che avete raccontato è estremamente interessante, forse al limite anche perché... Perché va a suonare la chitarra, certo, però magari trova un posto però, da commesso, dico, non quello del strimpellatore. Sì, però se uno dice che poi a 30 anni già si sente vecchio per il mercato del lavoro, io personalmente vorrei da spararmi, insomma, credo che abbiamo sentito dire che a 50 anni si comincia a essere vecchi, uno che a 30 anni si sente vecchio, magari può anche essere, come dire, non abbassate la guardia e le armi anzitempo, nel senso che i tempi sono duri, molto duri, però al di là di quello... Non bisogna arrendersi, dici, sono d'accordo. Sì, e al di là di quello però, ecco, mi pare che, come dicevi tu adesso, come è poi nata la società, molta gente sta pensando e sta facendo e si sta regolando e comportando di conseguenza, cioè riducendo, come si dice, il downshifting, come gli anglosassoni, che si accetta e si sceglie quasi di lavorare meno, di guadagnare meno e di fare una vita che sia più in linea, più in sintonia con quelle che sono le proprie aspirazioni, i propri desideri o anche i propri stress, le proprie paure, insomma. Rallentare, in un qualche modo il messaggio è quello, rallentare, cambiare, fare cose alternative, si diceva una volta, il termine forse è un po' abusato, però sì. Provare a esplorare vie nuove. Beh, questo è difficile anche perché l'intera cultura della comunicazione e l'intero presidio mediatico che ci porta verso quell'ingorgo di cui parli nel libro, consumare, comprare, girare, viaggiare, il turismo, leggere, guardare film, in continuazione una pressione molto forte. Sì, sì, si diceva l'altro giorno che sono stato a Reggio Emilia a presentare il libro, tra l'altro mi è trovato un pubblico stranissimo nella libreria, una libreria importante, c'era molta gente, abbiamo trovato una persona che ha alzato la mano e dice io e mio marito ci divertiamo a fare un gioco, entrare quando siamo in autostrada, entriamo in un grill, dato che appunto si va nel grill anche forse per fare i propri bisogni, ma si attraversa tutto, quindi come dire si è quasi costretti a comprare qualcosa, noi facciamo tutto quel percorso e quando usciamo, se ne siamo riusciti a non comprare niente, ci applaudiamo reciprocamente. Beh, insomma, credo che questo sia assolutamente emblematico. Abbiamo pochissimo tempo prima della chiusura, come al solito, come anche l'altra volta, Giorgio. Il tuo libro in 20 secondi. Beh, il mio libro in 20 secondi appunto è l'ingorgo, è, come dicevi mai tu, io parlo di quello che è l'ingorgo merceologico, mediatico, ma anche sociale, economico, cioè praticamente l'ingorgo che era solo una metafora, una situazione automobilistica è diventata una condizione normale della nostra esistenza. Non ci sono più ore di punta perché tutte le ore sono di punta, perché tutto cresce velocissimo, la banda larga, la dimensione delle autostrade, gli schermi della televisione, crescono anche le parole, le marche che sono tutti dei superlativi assoluti, mega, iper, ultra, eccetera, eccetera, eccetera, e che racconta un po' questo percorso, ormai tragico per tutti noi, quasi soffocante, con un manuale minimo di sopravvivenza, perché non sono un guru, non voglio fare il moralista, non voglio indicare nulla, e racconto un po' le cose che tu hai raccontato in questa puntata e che racconti di solito, insomma, che è tempo che, dico, chi si ferma non è perduto, dico, ma chi si ferma è sulla strada giusta per ritrovarsi. Continuiamo a raccontare le nostre storie, qualcuno prima o poi ci verrà dietro. Grazie Giorgio Triani, grazie a presto, alla prossima. Grazie anche alla redazione, Anita Panizza che ha curato l'intervista con Vandana Shiva, e a Calmero Lauricella per la regia. Riascoltatemi anche su www.radio24.it. Saluti dal traghettatore Enzo Argante.